Mari. Mari. Epestuca. Ciao Mari. Eia. Siete l'inno nazionale, no? Oh yeah. Ha detto, ma la televisione si è accesa. Ci sento basso però, Luca. Mi senti basso? Adesso non ti ho sentito, Luca. Mi senti? Fai passaggio. Mi senti adesso? No, adesso non ti ho sentito, Mi senti? Sento i bip, però no, la radio non c'è. Allora c'è? Peppa! Poco fa ti sentivo, basso, però ti sentivo, adesso radio non c'è, non c'è, sento solo i bip e basta, E Belù! E Mari! E te bala! E te bada? A me intende come? E io non ti intendo bene pure, Questa soria ti intendo! A te, qui hanno messo musica da tutti i palazzi. Senti. Adesso va benissimo, ma poc'altro non ti sentivi. C'era il bipi, però la radio non c'era. Però il bipi adesso non c'è. No, non c'è, lo sto facendo io. Bipi! E vai! Chiatta! No, ti sento adesso, ebbene pure ti sento, vai. Probabilmente c'era la batteria scarica. Forse anche per quello, cazzo. Così che. E poi cosa vuoi pretendere? Con un gommino, gatta, non è che puoi pretendere più di tanto, capito? Infatti già è quello che c'hanno questi gommini fissi, così che più appena si scarica la batteria scende di. Da mezzo watt farà a zero. Comunque, anche se mezzo scarica a mattina la radio dovrebbe essere forte ugualmente, o no? Ma deve essere, si abbassa anche quella, che ne saccio? insomma, cosa volimo? Poggio cartolino, cosa volimo? Infatti, se non cambiano le leggi, Cosa? E musica lì, messo ne hanno. Ce n'era uno qui dietro. Cazzo, ieri però, oggi no, ieri sera c'era, fino a tardi c'era un bel musica. E stavo guardando le telegiglie che hanno fatto la corsa, catta, in tutto Sassari. E poi a Piazza Italia c'era la dimostrazione. Non hai visto? La solidarietà è forte, speriamo di uscirne da questa crisi. Speriamo bene, cazzo. Speriamo bene. Ci vorrebbe un baracco, ci vorrebbe per uscire subito. Mi sembra la questione sia, oia, gatta. oia. Ma auguriamoci che tutto vada bene, per cui, gatta. E tutti stanno lamentandosi, gatta. Hai visto quelli, i sassari fichi che hanno brontolato, hanno messo tavoli fuori e li hanno denunciati. È tutto chiuso, Giovanni, tutto è chiuso, tutto. Tranne che, vabbè, gli alimentari e le farmacie. Il resto l'ho fatto chiudere a tutti. Infatti, oggi stavo lavorando sabato, venerdì, quelli che stanno mettendo quei campi sulle strade, no? Oggi non hanno lavorato, evidentemente hanno chiuso anche loro, capite? Tutto lì dalla parte, non si sono visti per niente oggi. Adesso hanno messo la musica qua, senza canuti sicuramente. Lasciali mettere. Non è la musica che fa guarire questa questione, no? Gli vorrebbe un miracolo. Sì, la Madonna ci vuole come un anno. Magari lui forse non ce la fa ancora, però è andato bene, ti ricordi? Sì. la volta della peste. Aspetta, ma non è che qualche nazione abbia buttato qualche cosa e la questione sia veramente, caspita, a me mi ammalo una cosa del genere. Oh, aspetta che prova a mettere il gommino. E adesso ho messo quel gommino che mi hai dato tu, Peppa, lo dico io, a me mi sembra che stai mortolando tu, oia. Ehi, e beh tu, Peppa. E beh, giovani. Oh, ma mi senti? Ehi, bassino, ma già ti sento. E quell'attimino tu ci ho messo. Ah, ma già ti sento però. Ehi, cazzo. E tu quale sei là? Quello là? Già ti sento, già ti sento. Ehi, cos'è che sei venne? Inciafugliando. Ah, mi raccomando, inciafuglia sempre. Fanno bene che si volti, La burburino la baccarella. Ah no. Ehi, adesso appena le finisco le metto in vendita. Ehi, la vacca già la metto io. Va bene, Giomari, mi assento, dai, già sono comunque acceso il PDV, che metto delle foto, dai. Già è acceso comunque se hai bisogno. D'accordo, va bene.